24 Mattino di Simone Spezia. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci tornati in diretta. Saremo insieme oggi e domani in una versione un po' ridotta, un pochino ridotta. Siamo, insomma, non è andata in onda lo spazio delle 6.30. Dal 7 di gennaio, martedì prossimo, torniamo regolarmente in diretta. Saremo insieme oggi e domani alle 8.20. Ci raggiungerà Maria Latella, mi raggiungerà Maria Latella. Avremo ospite tra gli altri oggi la ministra alle infrastrutture e ai trasporti Paola De Micheli, e parleremo di autostrade. Sarà con noi il vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli per fare un punto su questo inizio d'anno, così come un punto su questo inizio d'anno lo faremo come sempre il giovedì, visto che giovedì è, ed è giovedì 2 gennaio, con Fabio Tamburini, il nostro direttore, alle 7.45. Faremo anche un po' un punto sulle notizie economiche, non solo su quelle. Quindi, dato che siamo dei poltroni, ricominciamo il 7 con il giro vero e proprio, quello delle 6.30. C'è Gloria Guerrera in assistenza e redazione, Alessandro Chiappini in regia. Siamo in diretta da Roma oggi, in regia Milano, se non sbaglio c'è Peter Bescapè, mi viene confermato da Alessandro Chiappini con un pollicione alzato. Buon anno a tutti, buon anno, buon anno. 349-238-6666, se ci volete scrivere via SMS o naturalmente c'è sempre Telegram, perché qua da Roma i messaggi WhatsApp non li vedo. Però li posso sentire. Attenzione. Quindi, messaggi audio li attendiamo e li prendiamo molto molto volentieri. Fatemi sentire la vostra voce in questo inizio d'anno, se ne avete voglia, se non siete troppo assonnati, se avete già ricominciato a lavorare, come è probabile, molti lo fanno, altri invece si stanno facendo questo bel ponte, tirando dal primo gennaio, facendosi il giovedì e il venerdì, e poi attaccandoci il sabato e la domenica. Bravi, ci vuole, perché poi è lunga fino all'estate, è lunga, ragazzi. Dunque, fatevi sentire. Intanto ci facciamo sentire con la rassegna stampa. Questo è lo spazio dedicato. Mi sono dimenticato di dirvelo, è lunedì ritorna in realtà Giulia Crivelli nella giornata dell'Epifania, sarà lei con voi, e colgo l'occasione anche per dirvi che è bravissima, ragazzi, bisogna dirselo. È brava Giulia, brava, una brava collega, professionale. Quindi non perdetevelo, anche se un giorno di festa, il 6 gennaio in diretta con Giulia Crivelli. Così come è stata bravissima in questi giorni. Iniziamo a dare un'occhiata alle prime pagine, un occhio generale a quello che trovate sui quotidiani. Prima di tutto, come sempre, una scorsa veloce a quello che troviamo ai titoli di apertura. Se il Messaggero e, se non vado errato, il Corriere della Sera aprono sul tema di autostrade, tema sul quale ovviamente torneremo più avanti con Paola De Micheli, e lo abbiamo qua, autostrade, si riapre il caso, è il titolo del Corriere della Sera. Il Messaggero sceglie autostrade, frenata sulla revoca, a sottolineare un po' tutti questa tensione che continua ad esserci, continua a percepirsi tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, esattamente sulle mosse da fare, con il Movimento 5 Stelle che vorrebbe accelerare un po' di più e il Partito Democratico che frena più che altro per questioni regolamentari, per non trovarsi di fronte a dei ricorsi che possono essere un po' troppo pesanti. Qua abbiamo il Messaggero che sottolinea proprio questo, con Di Maio che accelera, e l'alto là dei trasporti. Anche su questo interpelleremo la ministra De Micheli più avanti nel corso della trasmissione. Trovate in prima pagina sul Messaggero, ovviamente, in prima pagina un po' su tutti i giornali, e lo avete sentito anche nel GR, questa storia del Papa, c'è proprio la foto di Papa Francesco, che viene strattonato da una fedele che con questo video, che ovviamente è circolato molto, è diventato virale, col Papa che viene tirato e dà uno schiaffetto sulla mano alle a questa donna, no? Con addirittura, se non vado errato, Libero, e adesso ve lo vado a recuperare, che fa l'apertura: anche il Papa si incazza, un paio di schiaffi alla rompiscatole, poi ha chiesto scusa. La pazienza dell'amore, l'amore ci fa paziente, tante volte perdiamo la pazienza, anche io, e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri. Chiede scusa a Papa Francesco per il cattivo esempio, quindi due schiaffette a una fedele che insomma era un po' troppo scalmanata nel chiedere attenzione e nello strattonare. Il Messaggero dedica, e ci arriveremo tra un attimo, a un po' di dettagli su tutto questo, anche un titolo alla discarica. Discarica si cambia, il dietrofront di Raggi che smentisce Grillo, perché la nuova discarica in arrivo dovrebbe essere vicino alla vecchia di Malagrotta. E gli altri titoli delle prime pagine, giusto per darvi un'idea, una scorsa, poi andremo a sentire cosa succede sulle strade e ritorneremo sui singoli dettagli, sui singoli giornali e sulle singole storie da raccontare. L'apertura della Stampa è un'intervista al leader leghista Matteo Salvini. Il titolo è: Salvini, Conte è lo zero assoluto. E poi sul tema delle donne, delle quali ha parlato Papa Francesco, e sempre qua torniamo, dice: rispetto al pontefice, ma la centralità delle donne è negata da certa immigrazione musulmana. Molto spazio sulle prime pagine, lo troviamo sulla Stampa, lo troviamo sul Corriere della Sera e anche su altri quotidiani, al via libera ai monopattini che saranno regolati, monopattini elettrici come le bici, e dettagli sulle regole per usarli in città. Il Mattino titola sulla prescrizione, prescrizione senza scadenza, 30.000 processi all'anno, e c'è anche un bel reportage, anche su questo arriveremo, di Ettore Mautone sul veglione di Capodanno fatto all'ospedale, mani distrutte dai botti e ragazzi sfatti dall'alcol. La Repubblica, 2020, il manifesto della giovane Italia, grande eco per il messaggio di Mattarella alla Nazione. Qua i giornali ieri non erano in edicola, e quindi un po' di commenti e di dettagli sul discorso di Mattarella li trovate ovviamente. A Centropagina un reportage su Tokyo, dove è già Olimpiade, già ci si prepara all'Olimpiade. Sole 24 ore ha un'apertura dedicata al pubblico impiego, ci arriveremo più avanti, 60.000 assunzioni in più nel triennio, e a centropagina notizie che riguardano il cuneo fiscale. Nel decreto ci sono tre vie per aumentare le retribuzioni nette, e una storia curiosa, perché ora l'ANAS, in vista della norma, e qua siamo sempre sul tema di autostrade, della norma del decreto mille proroghe che faciliterebbe l'eliminazione della concessione e la revoca della concessione ad Autostrade, e l'ANAS potrebbe chiedere lo scudo penale. Ci arriveremo anche su questo. Il manifesto apre con l'Australia, fuga dall'inferno per gli enormi incendi che stanno sconvolgendo la zona. Il Fatto Quotidiano su le tre regioni che vanno in esercizio provvisorio di bilancio, il buon governo leghista, cemento e niente bilanci, esercizio provvisorio per Basilicata, Umbria e Sardegna, dove Solinas autorizza le costruzioni sulla costa. E anche su questa legge voluta dal Consiglio regionale sardo torneremo tra un attimo. Il Giornale titola: l'odiatore Di Maio, Mattarella bacchetta il governo e parla di paese reale nel discorso del grillino, solo vendetta e rabbia sociale. La Verità apre su il condominio di Don Bolletta, dove si festeggia il capodanno gay dopo il cardinal Krajewski, lo ricorderete, la vicenda la ricorderete, ha riallacciato l'elettricità staccata per mancati pagamenti, lo spin time va alla grande, è un palazzo occupato e malgrado la diffida ha celebrato un San Silvestro aperto, giovane, frocio, libero e ribelle, così era definito. Avvenire, la fiducia e la pace, da Mattarella e da Francesco il forte invito all'impegno e alla responsabilità. E poi Libero, ve l'abbiamo già detto. Infine una chiusurina sulla Gazzetta dello Sport, che titola: reazione Inter, subito Vidal, in estate il sogno Eriksen, Juve oggi firma Kulusevski. Ovviamente si parla di mercato, traffico. Mattino. Ed eccoci di nuovo. Dunque, iniziamo a dare un'occhiata un po' a quello che troviamo nelle pagine interne dei quotidiani, singole storie, singoli racconti. E visto che vogliamo iniziare male l'anno, innervosendoci un pochino, andiamo a pescare subito dal Sole 24 Ore, vai, siamo a pagina 8 con un pezzo di Nino Amadore che ci porta nella mitologica capacità di spesa della regione Sicilia, che come sappiamo è assai scarsa, Cioè capacità di spesa dei fondi europei, perché poi quando si tratta di spendere in altro modo, come Sebastiano Barisoni ben ci racconta nelle sue classifiche del venerdì, la Sicilia sa spendere benissimo. Vogliamo dire così, Molto, molto rapidamente, ecco, mettiamola in questo modo. Qual è il tema qua? Che i fondi europei in Sicilia sono bloccati 630 milioni per strade, scuole, servizi e innovazioni. Una bellissima paginata quella di Nino Amadore, che entra anche nel dettaglio di quelle che sono le motivazioni e quelle che definisce anche le attenuanti, no, a questa mancata spesa. Si chiamano fondi territorializzati. Sono risorse destinate allo sviluppo dei territori. Che cosa servono per strade, servizi, scuole, incubatori di imprese, living lab, efficientamento energetico? Sono ovviamente risorse dell'Unione Europea e in Sicilia ammontano a oltre 630 milioni. Ma di queste risorse, a 5 anni dall'avvio della programmazione, è stato speso poco o nulla. Tanto che ora c'è chi chiede che vengano dirottate altrove ed è subito scoppiato lo scontro in un momento caldo per la programmazione regionale come quello di fine anno, con tutti gli uffici impegnati a certificare il più possibile per non perdere le risorse. Oh, sono tante le motivazioni che ci sono dietro questa, appunto, mancata spesa, ci racconta Nino Amadore. Spesso i comuni interessati non sono in condizione di pensare a una programmazione di lungo periodo e non sono mancati i casi di amministratori locali che hanno paralizzato l'avanzamento dell'iter per questo o per quell'interesse particolare. Quindi una vicenda, se vogliamo, tipicamente italiana, con un aggravante, viene detto in una relazione consegnata alla Commissione Europea, c'è questa scarsa capacità dei soggetti beneficiari a sviluppare una buona progettualità. Ma per darvi l'idea della condizione, perché qua si dice, insomma, i comuni hanno scarsa capacità a mettere in campo i progetti ed è per questo, appunto, che non riescono, no, a spendere questi soldi, e c'è di più, però ben 200 piccoli comuni rischiano il crack finanziario, denuncia il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che è anche presidente dell'ANCI Sicilia. E il tema qual è qua? Il tema è che mancano le professionalità all'interno dei piccoli comuni e c'è questa incapacità evidentemente di programmazione. Vi avevo detto che saremmo arrivati per continuare a parlare di questioni, insomma, che animano le vicende dei nostri territori e delle nostre città, che avremmo parlato di Roma e dei rifiuti. Ancora una volta il tema è quello della discarica, il luogo da identificare nel quale mettere, appunto, mettere almeno transitoriamente i rifiuti. Ebbene, la decisione è arrivata nelle scorse ore e il Messaggero vi dedica una pagina, Quotidiano di Roma, naturalmente, ed è pagina 11 con un pezzo firmato da Lorenzo De Cicco. Il tema è, appunto, dove piazzare questa discarica? Vicino a Malagrotta. Ve la ricordate Malagrotta? Malagrotta era la più grande discarica d'Europa, era stata smantellata o bloccata nell'ottobre del 2013 sotto la minaccia di una procedura di infrazione, e adesso improvvisamente la giunta romana decide che rispetto a Tragliatella, località del 14° municipio, periferia nord della capitale, un distretto amministrativo che era anche il feudo elettorale di Raggi, si sceglie un altro luogo, appunto vicino a Malagrotta. Ma qual è il problema? Il problema è che siamo a 2 passi da Fiumicino e, a prescindere da questo, c'è una rivolta degli stessi grillini. C'era anche un deputato grillino, Stefano Vignaroli, e alcuni consiglieri locali del Movimento 5 Stelle che hanno iniziato a protestare già nella sera di San Silvestro, invece di festeggiare, a protestare per l'arrivo della discarica. Sarà una guerra, urlava chi è sceso in piazza. Fermeremo i camion, dice qualcuno. La prima manifestazione sarà l'11 gennaio. Non abbiamo nulla da perdere. Siamo gente pacifica, ma questa zona ha già dato per 40 anni. Lo dicevano pure i 5 Stelle. Invece invece ci hanno tradito, attacca Mario Ungarelli, presidente del comitato Piana del Sole. Rischiano di essere nuove grane dunque per Virginia Raggi. Dobbiamo tornare, purtroppo quest'anno, insomma, un po' l'avrete visto ovviamente dalle informazioni su internet, nei telegiornali, l'avete sentito anche in GR24, dobbiamo tornare purtroppo a raccontare una nota di San Silvestro che ha fatto una vittima, per quanto indiretta naturalmente. Si tratta di un uomo, un ragazzo di 27 anni, carrozziere di Capodacqua ad Arquata del Tronto, studiava disegno industriale nella sede scolare dell'Università di Camerino, era uno degli angeli del sisma, perché se lo sapete Arquata del Tronto, se non ve lo ricordate, Arquata del Tronto è uno dei comuni che è stato più colpito, e Valerio Armatizzi era una delle persone che era intervenuta prima per aiutare i suoi compaesani. Ebbene, che cosa è successo? È successo che in un nuovo atto di altruismo, in sostanza, nel momento nel quale hanno fatto esplodere dei petardi, in realtà erano lui e i suoi amici, e questi petardi hanno dato fuoco a un pezzo di foresta, per andare a spegnere questo incendio è precipitato in un burrone, un volo di 80 metri, e ha perso la vita, e non c'è stato naturalmente nulla da fare. Ma il racconto di questo capodanno coi botti, che doveva essere un capodanno anche di botti vietati, racconta anche per esempio di Quarto Giaro, periferia nord-ovest di Milano, dove quattro amici adolescenti, camminando per strada, hanno raccolto dei petardi inesplosi, hanno provato ad accenderli e uno di loro ha perso la mano, ce n'è un altro gravemente ferito, anzi ce ne sono due che hanno perso una mano, un ragazzo di 13 anni e un ragazzo di 14 anni. Ben racconta tutto questo il Corriere della Sera, pagina 19, con tre servizi, uno di Rinaldo Frignani, uno di Gianni Santucci, e sempre Rinaldo Frignani firma questo pezzo che parla delle vittime della festa. I feriti sono 204 e c'è il primo morto al capodanno del 2013. C'è anche un racconto, lo trovate nella cronaca di Napoli del Mattino, di quello che succede, di una festa che vince sul caos e sui botti, e però anche di una pistola salve con turisti che, con i colpi che vengono sparati e tutti che fuggono, i turisti terrorizzati, è stata simulata una stesa, una bomba carta contro un'ambulanza e un medico ferito, i racconti delle mani distrutte dai botti, racconto raccolto sempre da Ettore Mautone, di Fiorella Paladino, che lavora al pronto soccorso del Cardinale di Napoli, e racconta questa notte terrificante con le mani distrutte dai botti e i ragazzi in coma etilico in quella che definisce la sua odissea in corsia. Questo il quadro, appunto, dalla notte di Capodanno. Il quotidiano La Repubblica ci porta invece su una vicenda che, insomma, è passata un po', insomma, certo, ha fatto notizia, se ne è parlato, però una vicenda della quale le motivazioni erano poco chiare. E qua ovviamente andiamo su un retroscena, quindi lo prendiamo per quel che è. Siamo a pagina 17, il pezzo lo firma Luca Fraioli e ha a che fare con l'addio di Samantha Cristoforetti all'aeronautica militare. Il motivo per il quale Samantha Cristoforetti, pur non rinunciando naturalmente alla professione di astronauta, ha deciso di lasciare l'aeronautica e all'aria, se permettete di essere, per come la racconta Luca Fraioli, vedremo cosa emergerà anche nelle prossime ore, all'aria di essere una vicenda tremendamente italiana. Racconta Fraioli: Astro Samantha vola via dall'aeronautica militare. La Cristoforetti svestirà la divisa azzurra da aviatore e i gradi di capitano con una spartana cerimonia nella base di Istrana, in provincia di Treviso. D'altra parte non c'è niente da festeggiare, perché è evidente come, pure nel silenzio dei diretti interessati, l'addio sia stato tutt'altro che indolore. E questo perché? Perché l'aeronautica perde uno straordinario testimonial, un astronauta che gode di una popolarità senza eguali, e più in generale ovviamente ci perde il nostro paese. Qual è il punto? È che in una riunione ministeriale del 27 e 28 novembre scorso, una riunione dei ministri europei che ogni due o tre anni individua gli obiettivi della politica spaziale del vecchio continente, la delegazione italiana si è presentata con un assegno da 2,3 miliardi di euro. In cambio chiede all'Agenzia Spaziale Europea una nuova occasione di volo per un nostro astronauta. I candidati sono Samantha Cristoforetti e Walter Villadei. Chi era a Siviglia racconta di pressioni enormi da parte dei militari italiani perché a spuntarla fosse il secondo. Chi è Villadei? È un ufficiale che non ha mai superato il concorso dell'Agenzia Spaziale Europea, racconta Fraioli. Tuttavia la difesa ha continuato a investire per la sua preparazione. Tanto che c'è un comunicato di 2 mesi fa dello Stato Maggiore dell'Aeronautica che dice che si è concluso in Russia l'addestramento di sopravvivenza in mare del tenente colonnello Villadei. La fonte è l'Ufficio Generale per lo Spazio, costituito nel 2017 presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica. Attenzione, di cosa si occupa? In sostanza di individuare gli astronauti italiani del futuro. E chi fa parte dell'ufficio del futuro, dell'Ufficio Generale per lo Spazio? Villadei, che così si ritrova a essere da una parte il candidato appunto di questo ad essere uno degli astronauti del futuro, dall'altra parte parte della stessa struttura che deve identificare appunto gli astronauti del futuro. E in questo quadro sarebbero maturata l'idea di dimissione da parte di Samantha Cristoforetti. Niente male, vedremo che cosa ci sarà da approfondire su questo fronte. Ci fermiamo, c'è una pausa, ci ritroviamo subito dopo. Vi voglio portare sulla questione del cemento sulle coste sarde, questo duro attacco al Fatto Quotidiano, almeno nel racconto di questo provvedimento da parte della giunta a guida di Solinas. E poi sempre dal Fatto Quotidiano, una notte di San Silvestro che non è stata solamente di botti per Capodanno, ma anche di bombe vere e proprie. E siamo a Foggia, una pausa tra poco. Mattino. Ciao Simone, volevo dirti che il Papa ha fatto bene, perché la difesa è sempre legittima. dai che non è male. Metti insieme un po' tutto, va. Allora, veniamo un altro po' di cose che troviamo sui giornali, e partirei dal Fatto Quotidiano che, come vi raccontavo in apertura, lancia un attacco un po' a queste regioni, sono l'Umbria, la Basilicata, la Sardegna a trazione leghista, niente bilanci, vanno in esercizio provvisorio, da dire che non è per nulla una novità per gli enti locali. Che cos'è l'esercizio provvisorio? Quando non riesci ad approvare la manovra di bilancio entro l'anno, succede che hai la possibilità di prorogare per i 3 mesi successivi, varando un'apposita legge, ma insomma questo è poco importante, per i 3 mesi successivi hai la possibilità di prorogare le misure della legge di bilancio precedente, quindi vai avanti con la stessa legge di bilancio dell'anno precedente non approvi quella nuova, il che crea dei problemi soprattutto in termini di programmazione, perché non chiarisci che cosa farai nel triennio successivo. Però su questo fronte c'è da segnalare il pezzo di Paola Pintus a pagina 10 del Fatto Quotidiano, che ha a che fare invece con la giunta Solinas, e nella sostanza racconta di questa idea di cemento libero in riva al mare, il piano Solinas. Il titolo è un po' carico, però in sostanza c'è una legge, un nuovo piano casa dell'esecutivo sardo leghista che, se approvato, scrive Paola Pintus, consentirà di costruire anche all'interno della fascia inderogabile dei 300 metri dal mare, facendo a pezzi il piano paesaggistico regionale targato SORU e la normativa quadro nazionale che disciplina le regole sul paesaggio, un vulnus che rischia di costare la bocciatura in sede costituzionale al progetto approvato dalla giunta su proposta dell'assessore all'urbanismo. Qual è il punto? Sono previsti incrementi volumetrici per gli edifici e le strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive ricadenti nella zona urbanistica F, quella costiera tutelata in modo stringente dal piano paesaggistico. Ogni struttura in sostanza potrà edificare l'equivalente di un quadrivano o di un trivano, e parliamo delle strutture turistiche che si trovano in riva al mare, cioè quelle in sostanza già esistenti. Poi ovviamente da vedere come queste norme vengono applicate, verranno applicate in questo paese. Sempre il Fatto Quotidiano, pagina 15, si parla di mafie. Sara Buono mette giustamente l'accento su quello che è successo a Foggia nella notte di San Silvestro. Una bomba dopo l'altra, così parla la mafia a Foggia. Altri 3 attentati incendiari a locali nella notte di San Silvestro. 3 diversi attentati a distanza di poche ore. Questo è il racconto. Il primo è avvenuto un'ora prima della mezzanotte ai danni del Veronique, un bar nella periferia della città. Viene forzata la porta posteriore e poi viene appiccato il fuoco con del liquido infiammabile. Stessa scena nel New Generation Café, a pochi passi dal centro, simili anche le modalità di azione, e in tutti questi casi abbiamo persone che raccontano e dicono: non abbiamo mai ricevuto richieste di estorsione. 17 omicidi, di questo parliamo, attenzione, perché sembra un luogo del quale finiamo per parlare poco, concentrandoci su altra criminalità organizzata, ma quella pugliese colpisce duro. 17 omicidi nel solo 2017, una 30 negli ultimi 2 anni. Il primo ad alzare la voce già nel 2014 fu l'ex questore Pier Nicola Silvis. Purtroppo oggi le bombe sono una nuova forma di comunicazione, non sono solamente segnali che indicano una richiesta irrisolta del pizzo, è una speciale forma di comunicazione operativa, come un po' come funziona per il terrorismo. Vi segnalo che un po' su tutti i giornali, forse la pagina migliore su questo è quella sul Corriere della Sera, pagina 22, se siete interessati al tema. La questione monopattini elettrici, c'è il via libera per legge, possono circolare in tutte le città, avete anche tutte le indicazioni operative, non è obbligatorio il casco, il giubbotto riflettente sì, la patente non serve, i consigli per scegliere il modello più adatto lo trovate un po' dappertutto. Così come un po' dappertutto trovate la vicenda dell'evasione di Carlos Ghosn, lo ricorderete, 65 anni, era stato arrestato il 19 novembre 2018, appena atterrato a Tokyo con il suo jet privato in arrivo da Beirut. Le autorità giapponesi, sulla base dei documenti forniti da Nissan, lo avevano accusato di evasione fiscale, malversazioni, dissimulazione di guadagni e truffa. Lo avevano tenuto 4 mesi nel carcere e adesso è fuggito. L'8 gennaio terrà una conferenza stampa, ci racconta Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. Su molti quotidiani trovate questa ipotesi che Montefiori sul Corriere definisce fantasiosa, del fatto che sia fuggito in questo modo. Era nella sua villa. È arrivato una specie di gruppo speciale di persone che doveva liberarlo, mascherati da banda musicale. Ghosn si sarebbe nascosto nella custodia del contrabbasso e sarebbe stato portato via in questo modo. Francamente ci suona un po' difficile, anche a noi, un po' strana anche a noi, tanto che appunto Montefiori dice: ma non era nascosto nella custodia un contrabbasso, lo dice già nel titolo. Vedremo che cosa racconterà lo stesso Ghosn l'8 gennaio di questa fuga rocambolesca, in quella che lui ritiene, le accuse nei suoi confronti le ritiene una totale invenzione, e quindi vedremo che cosa racconterà. Molto spazio sui quotidiani anche, e sempre per rimanere in ambito di esteri, a quello che è successo ieri davanti all'ambasciata americana a Baghdad. Le premesse sono queste: un contractor americano il 27 dicembre è stato ucciso dal lancio di 30 razzi contro una base irachena, l'attacco ha ferito anche 4 soldati americani. Gli americani hanno reagito colpendo una milizia sciita legata all'Iran e che si trova però in Iraq, e hanno ucciso 25 miliziani e ne hanno feriti una 50. Al termine dei funerali di costoro le persone si sono ammassate davanti all'ambasciata americana. Qua il racconto migliore ci sembra complessivamente sul quotidiano La Repubblica, pagina 11, anche con un po' di ricostruzione di tutto quello che è successo, e appunto si sono ammassati là davanti, hanno tentato addirittura di scalare le mura dell'ambasciata americana, a segnalare un po' appunto questo incremento di tensione, questa violenza che è ripartita in un paese tra l'altro squassato, come spesso abbiamo raccontato, da sollevazioni popolari nelle ultime settimane, parliamo dell'Iraq appunto, gli americani che hanno reagito lanciando gas lacrimogeni. Ci segnala a proposito di questo il giornale a pagina 10, in un pezzo firmato da Fausto Bilaslavo, che insomma c'è anche un rischio per i soldati italiani a questo punto, e perché lo racconta bene all'interno. Le Hashad al-Shabi, le unità di protezione popolare che sponsorizzavano la manifestazione, sono un cartello composto da diversi gruppi armati sciiti Uniti e il giorno prima avevano minacciato gli americani, ma anche i loro alleati come Francia, Gran Bretagna e Italia. Insomma, una minaccia ovviamente generica e che però, insomma, comprende anche il nostro paese. Insomma, tre ne vengono nominati, non è che ne vengono nominati 10, sono Francia, Gran Bretagna e Italia, e Biloslavo lo sottolinea giustamente nel suo pezzo sul Giornale a pagina 10. Per rimanere sugli esteri, il Manifesto decide di dedicarci l'apertura a tutto questo, all'incubo australiano, 5 milioni di ettari in fumo, ieri altri 100 incendi, 18 vittime accertate, mezzo miliardo di animali uccisi, ma per il governo non è colpa del climate change, scrive Maninella Correggia. Prendiamo qua dal Manifesto, perché appunto è il quotidiano che ci apre, però dettagli li trovate un po' su tutti i giornali in merito a questo. Le questioni più strettamente politiche, poi tra un attimo ci arriveremo anche nel dettaglio con il nostro direttore e direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, e però fatevi intanto segnalare due o tre cose. La prima riguarda il tema delle concessioni di autostrade, spazio lo trovate un po' su tutti i quotidiani, su quello che pare essere un nuovo scontro politico tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, più che sul ritiro delle concessioni, sulla modalità di ritiro delle concessioni, perché... Qua insomma si dice che nel quotidiano La Stampa, pagina 9, nel pezzo di Federico Capurso, anche il PD perde la pazienza, l'addio a autostrade nel dossier De Micheli. Tutto questo dopo il crollo del quale avrete visto, letto e sentito nella galleria della A26. Pagano i tecnici che intanto sono sospesi, ci raccontano Marco Grasso e Roberto Sculli da Genova, appunto, sulla Stampa, pagina 9. Erano quelli che avevano firmato l'ultimo rapporto di monitoraggio sulla struttura. Già dopo il Morandi c'erano indicazioni su interventi da fare sui tunnel. Gli ascoltatori di 24 Mattino sanno che di questo tema dei tunnel e della sicurezza dei tunnel ci siamo occupati più di una volta. Altro nodo di tensione tra PD e Movimento 5 Stelle è quello della prescrizione. Il Mattino decide addirittura di aprirci perché racconta di 30.000 processi che a questo punto sono senza scadenza, sono i processi penali, che appunto quelli all'anno, che non avranno più scadenza a causa dell'intervento delle modifiche sulla prescrizione. A questo punto, dato il via libera alle modifiche sulla prescrizione, ci vorranno delle modifiche di legge per rendere più brevi i processi, esattamente quello a cui puntano naturalmente a cui punta il Partito Democratico e lo stesso Movimento 5 Stelle, ma sui quali ovviamente non c'è ancora accordo. Catello Maresca, magistrato in servizio alla Procura di Napoli e docente di diritto presso l'Università Vanvitelli, parla con il Mattino e dice: lo Stato copre le inefficienze utilizzando obbrobri giuridici. Queste le testuali parole. C'è un'altra intervista a Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali, che dice: adesso basta con gli slogan, più tempo per la riforma. Insomma, l'idea un po' è che sia arrivato un po', per così dire, di fretta, no? Questa riforma della prescrizione, e PD e 5 Stelle non siano riusciti non solo a trovarsi d'accordo, ma anche a trovarsi d'accordo sulla regole per ridurre la durata dei processi. Tre interviste vi segnalo sul fronte politico. La prima, Silvio Berlusconi alla Repubblica: non mollo il timone e sarò io il garante di Salvini in Europa. La seconda, La Stampa, e la firma questa intervista Carmelo Lopapa. L'intervista firmata invece da Medeo la Mattina a Matteo Salvini sulla Stampa, pagina 3. Si parla di donne, e su questo viene scelto il titolo. Rispetto Francesco, Papa Francesco, che parla di donne appunto, ma un certo Islam è incompatibile con i diritti delle donne. E parla anche dell'esecutivo: siamo in mano a uno dei peggiori governi dal dopoguerra. Conte mi batte nei sondaggi? Alle urne non esiste, dice Salvini. Infine c'è un'intervista a Giorgia Meloni che trovate sul Messaggero e sul Mattino, che parla di un governo che imploderà, e sempre sul fronte politico ampie pagine sulla vicenda di Gianluigi Paragone, che ieri è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, il nuovo gruppo, e intanto l'ex ministro Fioramonti prepara la formazione di un nuovo gruppo che potrebbe chiamarsi Eco, questo è il racconto, lo trovate, uno dei tanti racconti, lo trovate a pagina 5 sul Corriere della Sera. C'è anche un'intervistina a Gianluigi Paragone che dice, insomma, molto brutale, dice io sono stato cacciato, io espulso? Non è così, no, e dice sono stato espulso dal nulla perché il Movimento 5 Stelle ha perso 2 voti su 3, così un po' brutale, appunto, Gianluigi Paragone. Il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per gli sms. E dato che siamo in diretta da Roma e per questioni tecniche che non hanno a che fare con noi, hanno a che fare con il come è strutturato WhatsApp, i messaggi WhatsApp da qua, da Roma, non li posso vedere, però li possiamo ascoltare, li possiamo far ascoltare. Quindi se avete dei messaggi audio, mandateli al 349-238-6666. Per la parte scritta c'è... ci sono i buoni vecchi sms, tanto ormai ve li tirano dietro, cioè, no, sapendo che si usano, no, che si usano le app di messaggistica, ormai avrete nei vostri contratti migliaia di sms al mese, quindi potete utilizzarlo. E volendo c'è anche Telegram, qua da Roma, che lo vediamo per chi lo utilizza. Fabio Tamburini, nostro direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core. Ciao Fabio, buongiorno e buon anno. Buongiorno e auguri a tutti. Eccoci qua dunque. Allora, come sarà questo inizio d'anno per la maggioranza, soprattutto, Fabio? Sarà travagliato, e in questo non c'è molta differenza con la fine dell'anno scorso. La maggioranza di governo è una maggioranza composita, ha posizioni al suo interno molto diversificate e Conte sta cercando di proporsi come il super mediatore, ma i segnali, io devo dire, non sono molto rinfrancanti. Però incrociamo le dita, buon anno a tutti e un'occasione di riscossa non si nega a nessuno. Sì, occasione di riscossa l'abbiamo sentita anche, no, nelle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Oggi c'è Lina Palmerini che dedica un'analisi al discorso del Presidente della Repubblica. I dossier con i quali si apre quest'anno sono molti, di alcuni trattiamo qua nel quotidiano, insomma, no? A partire dalla vicenda autostrade, passando per la prescrizione, senza contare ovviamente tutte le crisi aziendali, sono 150 che sono là e che, delle quali attendiamo soluzione. Oggi apriamo il giornale con una notizia che abbiamo trovato ieri: 60.000 nuovi assunti nella pubblica amministrazione per quest'anno. È una notizia a doppio taglio, certamente una faccia positiva è che se bisogna dare una spinta a questa economia, come diceva il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella, questa spinta passa attraverso anche lo sviluppo, gli investimenti, e quindi anche la pubblica amministrazione deve dare il buon esempio. Ma la notizia è a doppio taglio, perché naturalmente questi 60.000 stipendi in più bisogna pagarli, e purtroppo come paese non abbiamo gli spazi di manovra, per esempio, della Germania. Abbiamo sempre questa palla al piede del debito pubblico, e quindi è chiaro che questi 60 stipendi, l'altra faccia della medaglia è che vanno ancora di più ad appesantire i conti pubblici. Sì. Tuttavia io credo che serva una scossa al paese, serve far circolare moneta, far circolare liquidità, e quindi prendiamo la faccia buona della medaglia. E buonanotte. Ci sono dettagli anche sul famoso taglio del cuneo fiscale, lo semplifichiamo per gli ascoltatori, insomma il taglio delle tasse sul lavoro, semplicemente quello previsto appunto dal governo, che era una componente considerata dall'esecutivo fondamentale della manovra. Saranno quindi 3 fasce per gli aumenti, con una no tax area che esclude 4 milioni di contribuenti, la fascia intermedia fino a 26.000 euro, e il tetto di 35.000 euro con l'estensione degli 80 euro. Insomma, anche questo è un punto importante con il quale si apre l'anno. Io credo che bisogna puntare tutto, per quanto riguarda la politica fiscale, su uno slogan: tagliare, tagliare, tagliare. Il problema di questo paese è che chi paga le tasse ne paga davvero troppe, certamente le imprese ma anche le famiglie. Il problema è tagliare, tagliare, tagliare, lo ripeto, e semmai l'altro aspetto da sottolineare è che poi chi non le paga le tasse, e continuano a essere davvero in molti, deve tirar fuori il quattrino dalla tasca. Quindi tagliare le tasse per chi le paga già e farle pagare a chi non le paga, che sono ancora in molti. Allora, vicenda piuttosto curiosa, della questione autostrade tra l'altro parleremo, lo ricordo ancora una volta agli ascoltatori, più avanti alle 8.35 avremo ospite la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e ovviamente toccheremo anche questo argomento. C'è stata questa polemica di fine anno che riguardava il decreto mille proroghe, nel quale decreto mille proroghe è stata inserita una norma che di fatto facilita la revoca della concessione ad autostrade, facilita in generale la revoca delle concessioni e la possibilità del passaggio di queste concessioni ad ANAS, posto che ci sono tutta una serie di problemi giuridici che riguardano appunto la stessa revoca delle concessioni, perché presumibilmente ci potrebbero essere dei ricorsi su questo fronte. Dall'altra parte ci sono dei problemi giuridici, lo segnaliamo oggi sul Sole, Fabio, che riguardano ANAS, la quale potrebbe chiedere il famoso scudo penale del quale tanto si parlò su ArcelorMittal e Ilva, e che adesso insomma l'azienda si occupa di strade per lo Stato potrebbe chiedere nel caso dovesse rilevare la concessione di autostrade. Lo scriviamo oggi sul giornale. Per quanto mi riguarda, massima solidarietà ai vertici dell'ANAS. C'è un aspetto che va sottolineato, e questo vale sia per la ex Ilva, per l'acciaio, per ArcelorMittal, sia per i vertici dell'ANAS nel caso dovessero subentrare le concessioni. Nessuno può essere perseguito dalla magistratura per delle responsabilità che toccano ad altri. Questo è un principio di civiltà nei comportamenti che non si può smentire. Quindi occorrono leggi severe per chi fa degli errori o per chi fa delle attività illegali, ma occorre anche che nessuno sia chiamato a rispondere per delle responsabilità che non sono sue. Quindi nel caso, peraltro tutto da verificare perché la faccenda certo. È ancora molto controversa, nel caso che l'ANAS sia chiamata ad avere un ruolo per quanto riguarda le concessioni autostradali e le autostrade, non si può pretendere che dei dirigenti dell'ANAS vengano chiamati ad essere responsabili per delle scelte che non hanno fatto loro. Ripeto, questo è un principio di civiltà giuridica che deve valere per l'acciaio come per le autostrade, come per qualsiasi cosa, perché non è giusto che una persona venga chiamata a rispondere per delle attività illegali fatte eventualmente da altri. Eventualmente come un principio di inciviltà giuridica. Come c'è da altri, ascolta, ti voglio coinvolgere prima di chiudere, Fabio, su questa storia. Ne parliamo anche noi con un pezzo di Riccardo Barlam a pagina 12, ma lo si trova un po' dappertutto, l'incredibile fuga di Carlos Ghosn, l'ex capo di Nissan Renault, che insomma si volatilizza, torna in Libano e annuncia conferenza stampa per l'8 gennaio. Quella è una vicenda ancora tutta da scrivere e penso che seguirla sarà come andare al cinema. A volte la realtà è come un film e io credo che questo caso lo conferma. Dietro a questa vicenda c'è molto da scoprire, c'è molto da raccontare. Per quanto mi riguarda, ascolterò con attenzione la conferenza stampa del manager fuggito in Libano. È una vicenda ancora tutta da raccontare, come peraltro spesso accade quando queste vicende coinvolgono la Francia, i francesi, insomma è una spy story appassionante. Sì. Vedremo cosa ne emergerà. Grazie a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore di Radio 24 ovviamente e dell'agenzia di stampa Radio Cor. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo Alberto Rioli, poi avremo anche parleremo con Paola De Micheli, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tra poco.